proposito di pubblicità, non so se avete mai notato la pubblicità a fumetti della Team Card, in cui Team sta per Telecom Italia Mobile, che è l'azienda, credo che sia ancora un'azienda pubblica, non so bene, l'azienda comunque che gestisce il traffico telefonico via cellulare. E Card è la scheda elettronica prepagata da inserire nel telefonino per farlo funzionare. E come abbiamo già avuto modo da osservare in questa sede, il sistema presenta per l'utente il dubbio vantaggio di non ricevere l'addebito sulla bolletta bimestrale e per l'ente quello in dubbio di farsi pagare in anticipo. E così l'ente può permettersi di farsi propaganda con pagine intere di pubblicità a colori sui principali quotidiani e settimanali, pagina in cui, ricreando elegantemente la grafica dei comics degli anni 40 e 50, una via di mezzo, tanto per intenderci, tra Rip Kirby di Alex Raymond e il primo Superman, quello che noi da ragazzi chiamavamo Nembo Kid, si raccontano le fantastiche avventure di un tale Tim McCarty, appunto, geniale inventore in perenne lotta col perfido dottor Otellus, il cui nome, voglio sperare, allude alla gelosia che ne motiva le azioni e non intende ricordare per assonanza quello dell'unica concorrente italiana della Team, che si chiama Omnitel, se non sbaglio. Sia quello che sia, nella pagina che ho sotto gli occhi, il dottor Otellus, questo dottor Otellus, incazzatissimo per i successi del rivale, inventa la macchina che impedisce alla gente di parlare. Piazza certe antenne sui tetti e tutti diventano muti, nel senso che nei loro fumetti compaiono subito i puntini di sospensione. Il bravo Tim è in campagna sotto un albero fronzuto abbracciato all'amorosa, ed ecco che squilla il telefonino. Invece di scaraventare l'odioso oggetto nello stagno, come farebbe in quelle circostanze qualsiasi persona ragionevole, lo sventurato risponde. È un certo tenente Dexter, che a quanto pare la voce lui non l'ha persa, e lo informa del problema. Tim raggiunge il laboratorio e trova la soluzione, una nuova Team Card con una sola tariffa per parlare in qualsiasi momento, così tutti riacquistano la voce, il dottor Otellus viene associato alle carceri e la fidanzata dell'inventore, tornata tra le sue braccia, può chiamare col telefonino la mamma per tranquillizzarla. Spiritosissimo. Tanto spiritoso e accattivante che il lettore corre il rischio di non accorgersi del messaggio che gli viene fatto pervenire, che poi è molto semplice, perché identifica la possibilità di parlare, tra virgolette, di comunicare gli uni con gli altri, con il possesso di uno strumento specifico, il telefono cellulare. Idea strana, che però è più diffusa di quanto dovrebbe essere, come si può notare forse guardandosi attorno. Perché in fondo, a lume di logica, cosa dovrebbe servire il telefonino portatile? Dovrebbe servire a mettersi in contatto con gli altri quando non è possibile farlo altrimenti. Quando motivi particolari di urgenza, necessità o professionalità giustificano un ricorso a una tecnologia che è piuttosto sofisticata ed è socialmente molto costosa, perché comporta l'esistenza di strutture adeguate, ponti radio, satelliti, ripetitori e altre diavolerie complicate. Invece, con me come non è, al telefonino oggi si tende a ricorrere in qualsiasi circostanza, magari per comunicare con chi si trova a portata di voce o comunque facendone l'esclusivo trasmettitore della propria volontà di comunicazione orale. E sappiamo tutti, l'abbiamo già detto anche qua, che l'orgoglioso proprietario dell'ultima versione del nobile strumento non si abbasserebbe mai a fare una chiamata da un volgare apparecchio pubblico, anche se per avventura ne fosse circondato. In effetti basta passare 10 minuti nella sala d'attesa di un aeroporto, nell'atrio di una stazione, in un centro congressi, persino in una stazione radio, o in un altro luogo in cui abbondino i telefoni a muro o da scrivania, per vedere delle torme di assatanati che si ostinano contro ogni logica a parlare ciascuno nel suo mini terminale. E così mini, ma così mini, che oramai nel palmo dell'utente sparisce, e l'utente stesso, vista la tendenza a gesticolare con la mano libera man mano che si accalora nella conversazione, finisce con l'assomigliare sempre di più a uno di quei matti che una volta parlavano da soli ad alta voce nelle strade, no? In definitiva, il dottor Otellus ha ragione, insomma, a modo suo. Ci sono sempre più cittadini convinti che senza telefonino portatile rimarrebbero muti, che considerano quello strumento non come un utile marchingegno da utilizzarsi in situazioni particolari, ma come un'indispensabile estensione di sé. E siccome il telefonino bisogna prima comperarlo, costa sulle 500.000 lire, grosso modo, e dopo averlo comperato bisogna pagare l'abbonamento e la bolletta, o nel caso ripagare la scheda elettronica, ecco che la comunicazione, la possibilità di mettersi in contatto con gli altri, di tranquillizzare la mamma o di chiedere aiuto a chi pensiamo sia in grado di darcelo, dipende dalla nostra possibilità di pagare la tariffa relativa. Perché quello del telefonino è un tipico bisogno indotto, l'unico motivo per cui i bisogni vengono indotti in questa nostra simpatica società è quello di farci pagare in contanti la possibilità di soddisfarli. Se poi c'è un problema, se la città corre il rischio di restare muta, beh, non preoccupiamoci troppo, la team è buona e troverà una tariffa adatta. Ne siamo così sollevati che non ci rendiamo conto che la tariffa blu pubblicizzata a fumetti dall'ottimo team McCardy corrisponde per minuto di conversazione al costo di 4 normali gettoni telefonici, con l'IVA qualche cosina di più. E bisogna ammettere che un sistema economico commerciale che spinge la gente a munirsi al prezzo di alcune centinaia di carte da 1000, di uno strumento che ti permette di pagare le tue telefonate 4 volte il prezzo corrente, sfiora la genialità. Certo, è anche il trionfo dello sperpero, della dissipazione tecnologico-organizzativa, ma che ci volete fare? Così vuole il mercato, o meglio, così vogliono i mercanti. E così vogliono tutti coloro che non si sono ancora resi conto d'essere passati da tempo nella categoria delle merci.